cos'è quest'estate di Roberta Giordano. Ben svegliati cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi inizia con un certo anticipo di un'ora, diciamo, ma cos'è quest'estate rispetto alle settimane precedenti, perché oggi non ci sono i giornali quotidiani, poiché ieri era Ferragosto e quindi i giornalisti della carta stampata non lavorano il giorno di Ferragosto e di conseguenza non escono il giorno dopo i giornali. Quindi è un, diciamo, uno speciale ma cos'è quest'estate di questa prima ora, e poi inizieremo alle 8 come sempre in modo più tradizionale con gli ospiti in diretta, con tanti argomenti che poi vi anticiperò, però intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti, in ogni caso le potete vedere anche dai siti, e poi ci sarà questa prima ora con alcuni reportage di Radio 24. L'avete sentito, la notizia principale che poi trovate in apertura sui vari media in versione online per l'appunto è questa botta e risposta tra New York Times e governo italiano. New York Times è il quotidiano americano che ha rivelato ieri che gli Stati Uniti dell'amministrazione Obama acquisirono prove che Regeni, il povero ricercatore friulano, ormai lo ricordate, rapito, orrendamente torturato e ucciso in Egitto, era stato torturato e ucciso dai servizi di sicurezza egiziani che avvertirono, l'amministrazione Obama avvertì il governo Renzi con prove schiaccianti nei confronti dei servizi segreti egiziani. Però Palazzo Chigi poi risponde sottolineando che in quei contatti tra Italia e Stati Uniti non furono mai trasmessi, in quei contatti mai trasmessi elementi di fatto né tantomeno prove esplosive di cui parla invece il New York Times. Poi sempre attualissima la questione, per il primo piano la questione dei migranti, con il ministro dell'interno Minniti che dice: vedo la luce in fondo al tunnel, ma l'Europa, dice, deve affrontare unita la sfida, l'ha detto appunto sulla questione migranti. Intanto l'organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms denuncia di essere stata sequestrata per 2 ore dai guardacoste libici in acque internazionali e costretta sotto la minaccia delle armi a dirigersi in acque libiche. Poi ancora tra le vicende tragiche di cronaca nera, la storia del giovane Nicolò Ciatti, italiano 22enne, morto dopo aver subito in Spagna un pestaggio in una discoteca. È stata chiusa la discoteca, stasera ci sarà la veglia per Nicolò a Scandicci, proprio alle porte di Firenze. Intanto il locale dove è stato ucciso il giovane è stato chiuso dalle autorità spagnole, rimessi in libertà intanto 2 dei 3 aggressori fermati, e il 24enne ceceno accusato di aver colpito a morte Nicolò è un atleta professionista, si viene a sapere, di lotta libera. Poi per quanto riguarda gli Stati Uniti, Trump, il presidente americano, che torna sulle vicende, manifestazione violenta di Charlottesville durante appunto la manifestazione dei gruppi razzisti, suprematisti bianchi, con gli scontri che ci sono stati e anche la ragazza morta, era, diciamo, è tornato un po' sui suoi passi. Prima era stato silente, poi aveva detto delle cose ritenute poco opportune, adesso dice anche la sinistra è responsabile di quelle violenze perché è intervenuta in questa manifestazione di estrema destra. E l'altra notizia grossa con cui apre anche il Sole 24 Ore, per esempio, è questa del quantitative easing, cioè quello lanciato nel 2015 dalla Banca Centrale Europea, l'acquisto di titoli di Stato. La Corte Costituzionale tedesca ha deciso di chiedere alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sulla legittimità di questo programma della Banca Centrale Europea. Bene, adesso direi che c'è la viabilità e poi ci ritroviamo tra pochissimo per cominciare questa ora di speciali di reportage. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Ma cos'è quest'estate? Prima, in questa brevissima rassegna stampa, visto che, come vi dicevo, essendo ieri Ferragosto, oggi non ci sono i giornali, vi ricordo, anche ve lo dicevo dai siti, che stasera per gli appassionati di calcio c'è l'andata dei preliminari della Champions League tra Napoli e Nizza. Si gioca al San Paolo di Napoli, l'andata dei preliminari della Champions League. Adesso invece vi dicevo, prima di iniziare alle 8:10 con il clou di Ma cos'è quest'estate, questo speciale di reportage di Radio 24, iniziamo con questa intervista di Gigi Donelli all'ex ambasciatore Sergio Romano sul ruolo della Russia contemporanea nel contesto internazionale. Le interviste di Radio 24. Allora, professor Romano, intanto buongiorno e grazie di dedicarci il suo tempo. Nel suo ultimo libro, intitolato Putin e la ricostruzione della grande Russia, edito da Longanesi, lei racconta, tra l'altro, che il compito, o forse sarebbe meglio dire la missione che il presidente Vladimir Putin si è dato quando ha preso in mano il potere, ufficialmente il 31 dicembre del 99, è proprio quello di ricostruire il paese che ricevette da Boris Yeltsin. 17 anni dopo, alla luce dei molti cambiamenti avvenuti, il presidente Putin ha dunque vinto la sua scommessa, ha compiuto la sua missione? No, non posso dire che abbia completamente realizzato ciò che voleva realizzare, però molte delle cose desiderate, sì, ce l'ha fatta, è riuscito. Perché non bisogna dimenticare che aveva ereditato un paese in cui non soltanto erano scoppiate un certo numero di guerre civili o di guerre fra le varie repubbliche autonome, ma soprattutto un paese nelle mani degli oligarchi, vale a dire di una casta finanziaria che si era impadronita delle maggiori risorse del paese e che le sfruttava in modo totalmente spregiudicato, evadendo sistematicamente il fisco. Quindi la prima battaglia che Putin dovette fare fu la battaglia contro gli oligarchi e fu vinta brillantemente, anche se di quella battaglia noi naturalmente abbiamo visto la pagina peggiore, vale a dire il lungo processo e la lunga detenzione di Khodorkovsky, che era certamente un oligarca, non certamente meglio degli altri sotto il profilo dell'abilità finanziaria, ma probabilmente sotto il profilo intellettuale e civile il migliore degli oligarchi. Putin è un capo di Stato moderno o è un autocrate asiatico? No, non è certamente un autocrate asiatico e forse paradossalmente è molto più moderno di quanto non siano i presidenti delle democrazie parlamentari, perché forse varrebbe la pena di ammetterlo che la democrazia parlamentare è in crisi, istituzionalmente in crisi. Ora io non dico che alle democrazie parlamentari occidentali possa piacere di più il sistema russo, ma non c'è dubbio che quella che la Russia sta dando al suo problema costituzionale è una risposta costruttiva. Il sistema funziona. Ascesa di Vladimir Putin, la cito nel suo libro, dice: gli fu anche chiesto se avesse sofferto per la caduta del muro di Berlino e Putin rispose: in realtà pensavo che fosse inevitabile. Per dire la verità, la sola cosa che rimpiangeva era il ruolo dell'Unione Sovietica in Europa, anche se razionalmente, dice Putin, mi rendevo conto che un ruolo costruito su muri e divisioni non può essere mantenuto. Ma avrei voluto, conclude in questo passaggio il presidente della Federazione Russa, dice, avrei voluto che al suo posto si costruisse qualcosa di diverso. Allora, oggi questo qualcosa di diverso che cos'è, che cosa può essere per la Russia? Ma lui qualche segnale ce l'ha dato, per esempio questa comunità euroasiatica che ha cominciato a costruire è indubbiamente parte del suo disegno. Il disegno si è inceppato lungo la strada, lui naturalmente sperava, desiderava che di questa comunità euroasiatica facesse parte l'Ucraina, vale a dire il paese con cui la Russia ha il rapporto più intimo e più difficile allo stesso tempo. E invece questo non è accaduto. Per una serie di incidenti di percorso, l'Ucraina in quella comunità euroasiatica non c'è. E quindi la comunità euroasiatica zoppica. Però questo è pur sempre uno degli suoi obiettivi e non credo che intenda rinunciare così rapidamente. Alcuni giorni fa, professore, io sono avuto la fortuna di essere a Mosca all'inaugurazione di una mostra. Un pittore russo, Vassili Nesterenko, la sua mostra è intitolata Nostra Gloria, l'Impero Russo. Ora, la mostra è stata accolta al Maneggio, quindi l'edificio ai piedi del Cremlino costruito 2 secoli fa per celebrare la vittoria della Russia zarista sulle truppe napoleoniche. Tra le molte opere esposte, tantissimi paesaggi di questo straordinario e sterminato mondo russo, dal Mar Nero al Mare di Okhotsk nel Pacifico, la Carelia, gli Urali, il Caucaso, il Nevato, insomma i luoghi che richiamano anche nell'immaginario quello che è lo spazio russo. Lei scrive nel libro che lo spazio ha foggiato le istituzioni, condizionato la loro cultura politica, creato quella combinazione di aggressività e paura che ancora oggi è il dato caratteriale della politica estera. Insomma, sembra quasi dire la Russia è un paese troppo grande per essere normale. Infatti è troppo grande per essere governata come una democrazia parlamentare di tipo europeo. Vede, non bisogna dimenticare che la Russia sorge anzitutto dalla sua rivolta contro l'orda d'oro dei tatari, dei mongoli, come desideriamo chiamarli. E a un certo punto, espandendosi verso est, trova lungo la sua strada tre imperi che stanno progressivamente declinando, e che sono l'impero ottomano, l'impero cinese e l'impero persiano. E quindi avanza, avanza, avanza senza fermarsi. Addirittura è stato calcolato il numero dei chilometri quadrati al giorno, che è assolutamente impressionante, la grandezza del paese. E questo paese nasce impero e non ha nessuna intenzione di rinunciare ad esserlo. L'aggressività e la paura, secondo lei, spiegano dunque la Crimea e il Donbass, che oggi rappresentano gli oggetti del grande scontro con l'Europa e non solo? Lo spiegano in parte, naturalmente. Il problema di un paese così grosso e così difficile da gestire dal centro è anzitutto che lei non può gestirlo diversamente. Se non lo gestisce dal centro, se non riesce a gestirlo dal centro, non lo gestisce per nulla. E quindi, in altre parole, occorre un'autorità centrale riconosciuta, affidabile, efficace. Se questa autorità scompare, il paese rischia di essere immediatamente invaso da qualcun altro o comunque di precipitare nel caos. E i russi hanno paura del caos. Putin può fare a meno di Lenin, ma non può fare a meno di Stalin. Sì, certamente. Innanzitutto non può fare a meno di Lenin perché non crede nelle rivoluzioni e quindi non se la sente di glorificare questa rivoluzione in cui non crede, non ha mai creduto, nemmeno quando era un agente del KGB. Mentre invece Stalin gli consente, di ricreare, la rappresentazione, l'immagine, di una fortissima continuità della storia russa nel tempo. Il paese aggredito che si difende e vince. Stalin è stato aggredito, per la verità con qualche complicità sua naturalmente, ma non c'è dubbio che ha vinto. E non soltanto ha vinto, ma in qualche modo può autorizzare se stesso a proclamarsi come il salvatore dell'Europa contro il nazismo. Vero, non vero, ma certamente abbastanza convincente tutto sommato, non facilmente smentibile. E questo è un po', se vogliamo, anche il punto di incomprensione ricorrente tra la visione russa delle cose e la visione europea. Secondo lei siamo a un punto in cui una politica non ancora definita di Donald Trump potrà davvero arrivare a un rapporto di cooperazione costruttivo con la Russia oppure prevarranno le vecchie logiche? Ma innanzitutto rispondere ai quesiti su Trump è praticamente impossibile perché l'uomo è imprevedibile, anche lui ha un tasso di irrazionalità evidente e quindi cercherei di scivolarle senza risponderle. Però quello che posso dirle è che Trump una cosa ha certamente capito che non era stata capita da altri o che altri non volevano capire, e cioè che non si può combattere il radicalismo islamico senza tenere conto dell'esperienza russa. La Russia è di gran lunga il paese che ha fatto per prima l'esperienza del fanatismo islamico e della sua durezza, crudeltà, brutalità. Dimentichiamo la guerra cecena, dimentichiamo l'attentato della scuola di Beslan, dimentichiamo l'attentato della metro di Mosca, o per esempio i due aerei saltati in aria, in cielo, perché due terroriste cecene si sono suicidate, naturalmente. Insomma, tutto questo sembra che noi ce lo siamo dimenticati. Mi sembra che Trump lo abbia capito. E allora si può continuare a parlare male di Trump, ma non fino al punto di smentirlo quando dice la cosa giusta. La nuova pagina della guerra sporca è l'Ucraina? La Russia oggi si ritrova e direi che forse varrebbe la pena distinguere, credo, non so se lei la pensa come me, tra la Crimea, che è un contesto particolare, e quello che invece è il Donbass, un luogo di confine, non confine, perché poi è una terra piatta, e questo è un aspetto che chi conosce, insomma, il mondo, dell'Est non può non rendersi conto, semmai il passaggio è un fiume. Ma insomma, Putin, a suo avviso, è pronto a gestire per un ventennio chissà quanto lo Donbass o forse troverà una soluzione? Ma io credo che Putin ci abbia già dato una risposta in un certo senso, perché ha annesso la Crimea, ma non ha annesso il Donbass. Quindi quando non lo si fa, quando non si annette una provincia in cui la dissidenza russa esiste, non c'è dubbio, vuol dire che non ci si vuole legare le mani, che non si vuole impegnarsi e si preferisce tenere in qualche modo la situazione aperta perché su quella potrebbe dover fare delle concessioni. In conclusione, il suo libro è una grande occasione anche per, come dire, lucidare un po' delle memorie che abbiamo di un periodo storico che ormai copre più di 30 anni e di una serie di passaggi. Naturalmente ci sono moltissimi temi che in questa intervista non abbiamo tempo di toccare, però sicuramente, a mio avviso, ha il grande merito di suggerire una serie di riflessioni al di là degli stereotipi. Effettivamente, lei l'ha detto, esiste un approccio antirusso che probabilmente è inspiegabile quanto la paura dei russi di noi. Sì, senza dubbio. Vede, la mia critica è soprattutto alla NATO, perché io credo che la situazione sarebbe alquanto diversa se da un certo punto gli Stati Uniti, ma non soltanto gli Stati Uniti, non avessero deciso di espandere la NATO sino alle frontiere della vecchia Unione Sovietica o addirittura al di là delle frontiere della vecchia Unione Sovietica. La NATO non è un'alleanza tradizionale. Le alleanze tradizionali si facevano fra stati che si promettevano di darsi una mano nell'eventualità che la cosa fosse stata utile a entrambi. E si scriveva il meno possibile perché bisognava lasciare le mani libere il più possibile. La NATO è un'alleanza per fare la guerra. Nasce in funzione di un obiettivo. Come faccio la guerra il giorno in cui verrà? Perché nel momento in cui ci si prepara a tal punto a una guerra si rischia di farla venire, di farla arrivare. E allora voglio dire, quando lei a un certo punto, lei russo, lei moscovita, vede questa alleanza avanzare verso le sue frontiere, come dovrebbe reagire? Quali dovrebbero essere le sue reazioni? Non dovrebbe essere preoccupato? Ma cos'è quest'estate? Roberta Giordano sempre con voi in questo anticipo di Ma cos'è quest'estate? Adesso state sentendo uno speciale all'interno di Ma cos'è quest'estate? Reportage, poi dalle 8 e 10 ricominciamo come questi giorni con gli ospiti in diretta. Allora, adesso passiamo, abbiamo parlato del ruolo della Russia contemporanea nel contesto internazionale, ora invece capiamo che ne è dell'Expo, dell'esposizione universale che è stata a Milano dedicata al cibo a 2 anni di distanza. Ce lo racconta Roberta Pellegatta. Radio 24 Reportage. Expo 2 anni dopo. Le nuove sfide di Milano. Di Roberta Pellegatta. Queste opportunità ti capitano ogni tot decenni e Milano ce l'ha in questo momento. Bisogna giocarsela bene. Come spiega il sindaco Giuseppe Sala, l'occasione è quella che Milano non vuole perdere, riuscire, a 2 anni dal successo di Expo, a cogliere le nuove sfide internazionali che Brexit sta lanciando, sfidando nella corsa le capitali europee. A Londra hanno sede l'EBA, l'autorità bancaria europea, l'EMA, agenzia europea del farmaco, e altre istituzioni finanziarie destinate a spostarsi altrove quando l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea sarà effettiva. Milano vuole giocare la partita, forte dei suoi numeri, un PIL che vale il doppio di quello del paese, 1,2%, l'export regionale ai massimi storici, 112 miliardi, 90 imprese con più di 1 miliardo di fatturato, 8 università, i giovani sempre più numerosi, quelli tra i 15 e i 34 anni sono aumentati di quasi il 5% nell'ultimo biennio. Per il sindaco Beppe Sala il momento è propizio sotto tutti i punti di vista, con l'imminente risistemazione dell'area Expo e degli scali ferroviari a rappresentare la scommessa maggiore per Milano. Diciamo che è attrezzata perché i suoi comparti sono cresciuti dall'università all'industria e alla creatività. È scelta dai giovani e questo è un elemento importante, quindi sta cambiando sangue. Certo c'è molto da fare, Milano però avrà ancora più successo e successo deve essere successo di tutti se starà nel mondo, quindi la nostra regola è una sola, Milano internazionale. Tuttavia alcuni difetti vanno sanati per riuscire nella competizione con le altre piazze finanziarie europee a partire dalle infrastrutture aeroportuali, come spiega il presidente uscente di Assolombarda Gianfelice Rocca. Se si vuole essere città mondo, città metropolitane mondo, bisogna avere comunque la capacità di andare punto

tenendo ben distinto quelle che sono le vecchie biotecnologie, diciamo gli OGM tradizionali, quelli che chiamiamo i Frankenstein food da noi, rispetto a quelle che sono le new breeding techniques, le nuove tecniche di ibridizzazione, che in realtà sono ottenute attraverso miglioramenti genetici intraspecie, cioè senza spostamento di geni, e si è voluto soffermare proprio anche molto, molto tecnicamente, diciamo, sull'aspetto, indicando nel genoma editing, nella crisogenetica, insomma, in queste nuove tecniche un futuro, perché allargano il campo diventando diciamo attuabili anche senza grandi economie di scala, quindi senza lasciare solo alle grandi multinazionali lo spazio, ma aprendo a tutti i piccoli centri di ricerca. Più volte Obama ha insistito sulla necessità che anche l'agricoltura tagli le sue emissioni di CO2, perché è il secondo comparto per quantità di emissioni, ha sottolineato. Le lobby agricole sono molto forti, ma bisogna insistere, ha detto. Come va in Europa? Chiediamo a De Castro. Siamo avanti anche perché abbiamo già sul tavolo del Consiglio e del Parlamento la proposta del commissario Miguel Cañete, che è una proposta che ovviamente è in fase di discussione e che impegna gli Stati membri ad un obiettivo di riduzione che vede coinvolti tutti i settori produttivi, agricoltura compreso, e questo sicuramente sarà oggetto di grandi dibattiti, ma l'obbligo è di arrivare, di raggiungere quegli obiettivi di riduzione delle emissioni. I believe we can seize this future together. Lo Yes We Can è tornato a risuonare. Yes we can. Yes we did. Yes we can. Thank you. God bless you. E per il bene del pianeta, speriamo che ce la faccia anche questa volta. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Bene, quindi finito questa prima ora, questo speciale all'interno di Ma cos'è quest'estate? Poi alle 8:10 ci ritroviamo per cominciare con gli ospiti in diretta con vari temi che ci saranno. Oggi parleremo della politica d'estate, non solo di sirenetti, di politici che vanno al mare. Poi il Mediterraneo che se la passa piuttosto male, secondo gli ultimi dati di Goletta Verde, piuttosto inquinato in Italia. E poi le operazioni città sicure, con anche le indicazioni come prevenire i furti in casa in questo periodo di vacanze. Per finire, il fenomeno degli SNIT, cioè coloro, secondo un acronimo americano, che non cercano storie d'amore e neanche avventure. Potete chiamare il numero verde 800 24 0024 su questi temi. Ci sentiamo alle 8:10. Ma cos'è quest'estate? E rieccoci, Roberto Giordano con voi qui su Radio 24. Ho anticipato questa mattina, iniziato con voi alle 7, quindi il ben svegliati già ve l'ho dato, a qualsiasi ora abbiate puntato la sveglia. L'importante è che siate puntuali qui alle 8:10. Dalle 7 c'è stato uno speciale reportage e rassegna stampa in breve, visto che non ci sono i giornali, dato che ieri era Ferragosto, i giornalisti della carta stampata non lavorano il giorno di Ferragosto, quindi oggi non c'erano i giornali. Adesso entriamo invece nel vivo di Ma cos'è quest'estate, come tutte le mattine, e gli argomenti sono tanti anche oggi. Intanto parleremo della politica italiana in vacanza, parte delle immagini che scorrono in questi giorni con un Antonio Razzi con la coroncina di fiori, la collana di fiori in veste caraibica e qualche altro sirenetto con vari costumi in varie località eccetera. Ma diremo anche di cosa si occupa la politica in questi giorni, e poi come sta, a proposito di vacanze, il Mar Mediterraneo, i nostri mari, che in che stato di salute sono? Non molto buono, purtroppo, bisogna dire, secondo i dati che poi ci faremo raccontare direttamente da Goletta Verde. C'è poi l'operazione Città Sicure, che c'è stata in questi giorni con le forze dell'ordine, che hanno fatto operazioni di prevenzione e anche repressione con vari arresti, in particolare relative ai furti fatti in casa, e anche come possiamo prendere misure e prevenire questi reati, ne parleremo. e ci parleremo anche del fenomeno degli snit. Allora, l'estate si sa, no? È la stagione delle relazioni, dei flirt, delle coppie che a volte si ritrovano perché probabilmente poi in vacanza ci si rilassa, tanti problemi, tensioni che ci sono durante l'anno insomma, in qualche modo evaporano, e altre invece, altre coppie che scoppiano. Il fenomeno degli snit è un fenomeno che viene dagli Stati Uniti, come al solito poi si diffonde un po' dappertutto, è quello dei single che in realtà scelgono volontariamente di esserlo, cioè non vogliono né storie d'amore impegnative e nemmeno però flirt, avventure così passeggere. Decidono che è meglio star soli che male accompagnati, come dice il vecchio proverbio. Allora, su tutti questi temi, lo sapete che potete intervenire durante tutte le due ore di Ma cos'è quest'estate, sino alle 10. Quindi il numero verde per le vostre telefonate è 800 24 00 24, ricordate che è un numero verde, quindi non solo gratuito ma anche ecologico, perché evitate di disperdere nell'ambiente e in altri rivoli le vostre idee, i vostri pensieri, il vostro tempo, concentratelo invece qui in questa puntata. E poi il numero per i più timidi, che è WhatsApp, per WhatsApp SMS, che è 349 238 6666. Intanto sentiamo che aggiornamenti ci sono in questo post Ferragosto per chi viaggia e poi ci ritroviamo tra pochissimo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Ma cos'è quest'estate? Che cos'è quest'estate anche per la politica italiana? Ne parleremo a breve e vi ricordo però intanto i temi di oggi, che sono appunto la politica in vacanza, ma che in qualcosa agisce comunque al di là delle immagini che stiamo vedendo in questi giorni dei vari volti della politica italiana in costume. E poi a proposito di mare, il mar Mediterraneo che è un malato cronico soprattutto lungo le nostre coste, in particolare per alcune regioni. Sentiremo poi gli esperti su questo di Goletta Verde e operazione, ve lo ricordo, città sicure, non perdetelo perché ci sarà anche un decalogo per prevenire i furti in casa. E poi il fenomeno degli snit, delle relazioni di molti che cercano di evitare gli impegni delle storie d'amore, ma anche l'impegno della seduzione, del interagire con l'altro, del diciamo doversi porre anche con le proprie debolezze, le proprie fragilità. Il fenomeno degli snit. 349-238-6666 è il numero per messaggi WhatsApp, ma non dimenticate che c'è anche un numero verde per voi per intervenire in diretta con le vostre voci sui vari temi di oggi. Siamo insieme fino alle 10:00 24 00 24. Dicevamo quindi della politica italiana. Voto Antonio, italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo: Antonio La Trippa, italiano, vota Antonio La Trippa, italiano, vota La Trippa. Io sugo! Brutto mascalzone, figlio di... Italiani, italiani, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Inquilini, coinquilini, condomini casigliani, quando andrete insomma, urne. Questa è la campagna elettorale di Totò, che a volte assomiglia anche alle campagne elettorali italiane. Ma adesso con gli ospiti che saluterò tra poco parliamo della politica italiana in vacanza, vi dicevo, anche se le dichiarazioni, seppur molto più sporadiche che nel corso dell'anno, non mancano anche in questi giorni. Ultimamente in particolare sulla vicenda dei migranti, dei flussi migratori e delle organizzazioni non governative, poi c'è sicuramente in primo piano ci sono anche le possibili alleanze, le strategie, le alchimie per le elezioni che ci saranno in Sicilia a novembre. La Sicilia è, sappiamo, poi un modello che si esporta spesso a livello nazionale. E c'è stato nei scorsi giorni, molto recentemente, un sondaggio dell'Istituto XE sul gradimento da parte degli italiani e delle italiane nei confronti dei politici italiani. Al primo posto chi c'è? C'è Gentiloni col 32% degli intervistati che dicono che preferiscono Gentiloni. Al secondo posto, stavo saltando il secondo, c'è Renzi con il 25% e poi Salvini col 23%. Però tutta la classifica ce la facciamo scalare e descrivere dal presidente dell'Istituto XE, che è Roberto Weber. Weber, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma vede, la chiave di tutto è rappresentata, secondo me, da questa tripartizione che c'è stata in Italia, o che c'è in Italia, tra, se vuole, forze di centrosinistra, sinistra, un arco di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Queste dimensioni qui fanno sì che le popolarità anche degli uomini politici siano confinate dentro un perimetro molto preciso. Non so se mi spiego, non possono andare troppo al di sopra del perimetro delle forze che li sostengono, che li rappresentano. Di conseguenza non stupisce, secondo me, la leadership di Gentiloni, che è solida e piuttosto stabile, si è mantenuta sempre, cresciuta da un 25% circa fino al 35%, poi grosso modo sta lì, rispetto alla quale tutti gli altri leader di partito, per forza di cose, sono attaccati in maniera abbastanza significativa. Ecco. Poi lei ha, nel caso del Movimento 5 Stelle, noi proponiamo due nomi, sia Grillo che Di Battista, credo che tre nomi, Di Maio, di conseguenza c'è un contaminarsi in qualche modo delle preferenze, no? Che vanno su tre dimensioni piuttosto che su una. Weber, se mi permette, ripercorro la parte alta della vostra classifica di Istituto XE. Allora, dicevamo che Gentiloni è al primo posto col 32% delle preferenze, poi Renzi col 25%, Salvini al terzo posto con il 23%, Di Maio è gradito dal 18%, appunto Di Maio nel Movimento 5 Stelle, Berlusconi al 17%, sì. Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia, allo stesso livello di Berlusconi, 17%, e poi dove siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, al settimo posto Grillo, al sì. 16%. Esatto, perché la profilazione politica di Grillo è meno puntuale, per qualche aspetto, no? Però quello che colpisce, questo bisogna stare un po' attenti, il gradimento di Salvini è ben superiore alla quota di consensi che i sondaggi stimano che possa essere la Lega. Mentre negli altri casi non è così, il 25% di Renzi è grosso modo in sintonia con i voti che prenderebbe oggi il Partito Democratico, forse qualcosa di più, no? Molto più. Lo scarto è buono invece per Gentiloni, ripeto, che sta 7-8 punti sopra Renzi, 32%, no? 32%, e che segnala, a mio avviso, un cambio di registro, no, nelle modalità di leadership, che è stato apprezzato da una quota significativa di italiani. Non era scontato, ecco, pare che piaccia. Pare che piaccia Gentiloni. Invece diceva, sì, di Salvini che le preferenze nei suoi confronti sono superiori a quanto è gradita la Lega, nel senso che lui è visto quasi come il leader a sé stante. Questo è buffo, in qualche modo, mi scusi il riscontro, no? Bisogna scendere e andare indietro nel tempo. Certo. Accade un pochino con lui quello che accadeva con Fini. Fini aveva sempre un gradimento personale molto molto molto alto. Poi in realtà Alleanza Nazionale non raccoglieva tutti i consensi che il leader esprimeva. In questo caso non dico che ci avviciniamo, però ci sono delle similarità in qualche modo. Il che significa che quell'area di insofferenza piuttosto forte che ritroviamo marcatamente nel nord e nel centro-nord del paese trova in Salvini un scontro marcato e in qualche modo porta via consensi anche sia di partito che di leadership al Movimento 5 Stelle, che appare molto più forte nel centro-sud del paese. Movimento 5 Stelle nel centro-sud del paese più forte? Diciamo. Guardi, se guardiamo agli standing, diciamo, delle potenziali coalizioni, non abbiamo una coalizione di, diciamo, pure il centro-sinistra, supponiamo che si mettano d'accordo in qualche modo, mi sembra improbabile, no? Con questi raggruppamenti che stanno a sinistra del PD. Poi prendiamo il centro-destra, tutto assieme con Fratelli d'Italia, poi prendiamo il Movimento 5 Stelle e abbiamo tre aree di radicamento: il centro-nord, nord-ovest e nord-est sono vastamente dominati dal centro-destra, lo scarto è nettissimo. Le regioni del centro, comprensiva dell'Emilia-Romagna, diciamo, quelle tradizionali che una volta venivano chiamate regioni rosse, vanno a beneficio del Partito Democratico, ma naturalmente hanno un bacino di voti nettamente inferiore. Il centro-sud è a trazione Movimento 5 Stelle, il che getta una luce anche sui potenziali di voto in Sicilia, adesso al di là dei sondaggi che sono ancora, intanto sono fallibili di per sé. Certo, come sempre, lo abbiamo imparato. Sempre. Poi in particolare in Sicilia sono difficili e in una fase in cui non sappiamo che tipo di coalizioni ci saranno è difficile fare previsioni, però sappiamo, questo sì, che il Movimento 5 Stelle è fortemente radicato, è molto forte. Weber, per chiudere con lei, lei in questi giorni accende parecchio l'aria condizionata per caso? L'aria condizionata? No. No, pensavo dalla sua voce, magari sa questi sbalzi di temperatura, il caldo fortissimo. No. Va bene. Weber, io la ringrazio, le auguro buon lavoro e poi ci sentiamo prossimamente quando inizia nel pieno la stagione politica. Grazie Roberto Weber. Grazie. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? In realtà non è iniziato con questa canzone di Gabri, il chiedersi cos'è la destra, cos'è la sinistra, forse non esistono più, forse esistono, sapete, questo dibattito va avanti da tempo e forse lo incarna in particolare il Movimento 5 Stelle più recentemente. Vi ricordo il numero per intervenire su questo tema e sui prossimi, anche che vi ho già anticipato di Ma cos'è quest'estate di oggi, il numero verde è 800 24 00 24. C'è Marco, che saluta da Perugia, che dice: buongiorno, ma che bisogno c'è di rimarcare ogni volta che l'uso della messaggeria WhatsApp sia per i più timidi? Io non lo so se qualcun altro l'ha detto, io è la prima volta che lo dico oggi, nel senso, ho detto chiamate il numero verde una volta che avete l'occasione di far sentire la vostra voce, invece di mandare soltanto messaggi al 349-238-6666, che però sono legittimi e sempre graditi. Comunque il numero verde invece per intervenire in diretta è 800 24 00 24. Saluto immediatamente la nostra Elisabetta Fiorito da Roma. Ciao Carabetta. Buongiorno. Aspetta, allora, prima di andare sulle cose ponderose e serie della politica italiana, tu hai potuto vedere le immagini pittoresche di questi giorni, per esempio il senatore Antonio Razzi che manda il tweet da Pescara con la sua immagine con coroncina e collana di fiori in stile caraibico, e poi c'è Gentiloni col suo costume rosso, si parla di Renzi che è in Versilia, che ha fatto una pizza, forse ieri o l'altro ieri ha mangiato una pizza in stile nazareno con il pupillo di Berlusconi a Pietrasanta, il sindaco. Ma sì, insomma, queste sono le immagini classiche che avvengono ogni agosto. Legittimamente anche loro fanno le loro vacanze, no? In spiaggia, no? Abbiamo visto la moglie di Renzi al camping, Marianela Boschi che adesso ha scoperto Instagram e si allena in palestra, insomma. Era Formentera, anche lei, insomma, girano. Un po' girano di circo tra. Mediatico ci sta, Di Battista con la fidanzata che aspetta un bambino, no? A Venezia, con lo sfondo a Venezia, insomma. Il ministro del lavoro Poletti con il camper, hai visto, fa vedere che gira col camper, ognuno secondo i propri gusti. Quindi invece dal punto di vista, diciamo, della ciccia, come si dice, no? Del contenuto, ovviamente sono in vacanza, quindi a intermittenza fanno dichiarazioni, tutto molto più sporadico, però si stanno scaldando i motori per la campagna elettorale che riguarda le elezioni politiche del prossimo anno, però intanto a novembre ci sono quelle siciliane. Intanto diciamo che in questo sondaggio del professore non compare il nome chiave per le elezioni politiche in Sicilia, per le elezioni, scusate, regionali in Sicilia, che è Angelino Alfano. Ah già, che è il lago della bilancia! Il quale improvvisamente, da che era considerato un leader senza appeal, ricordiamo le parole di Renzi, no, riguardo al fatto che era una persona che aveva occupato tutti i ministeri ma non aveva consenso. Lasciato il segno, anche se Berlusconi, ti ricordi, è stato il primo a dire che non aveva quid quando era ancora il suo delfino. L'uomo senza quid è quello che poi sta decidendo le elezioni regionali. Se allearsi con gli uni o con gli altri. Sì, perché ha un 6-7%, almeno questo qui, di consenso, Alleanza Area Popolare, e questo è quello che danno i sondaggi, e quindi a quel punto diventa l'ago della bilancia. Chi lo vuole? Da una parte lo vuole il PD, ma in questo Alfano vuole mettere un suo nome, un eurodeputato di Area Popolare, e qui c'è il contrasto con il PD. Da un'altra parte Forza Italia non dice di no, almeno la corrente è più possibilista, Romani rilancia e dice intanto cominciamo a costruire un'alleanza in Sicilia, poi per le politiche si vedrà. In questo il cavaliere, cioè Silvio Berlusconi, è più morbido, sa che i giochi della politica sono anche quelli di ritornare sui propri passi, mentre non è così né Salvini né Giorgia Meloni, che mettono proprio il veto a chi ha governato con il PD e chi governa tuttora con il PD. Ricordiamo che Alfano due giorni fa ha fatto quello che sta facendo in questo momento il ministro degli esteri, ha rimandato l'ambasciatore italiano al Cairo dopo la svolta sul caso Regeni, no? Quindi quest'uomo che nessuno voleva adesso sembra diventato il l'ago della bilancia in Sicilia, e queste elezioni regionali siciliane che si svolgeranno inizio novembre sono importanti per capire quali possono essere le alleanze in vista delle elezioni politiche, perché da una parte Orlando, il ministro della giustizia PD, area di sinistra del PD, rilancia una grandissima alleanza che va da Alfano a Pisapia, articolo 1, a Pisapia, insomma articolo 1, a Bersani, il governo, quello che regge il governo attualmente, perché ricordiamo che l'area di sinistra non è in maggioranza ma comunque vota i provvedimenti del governo. Dall'altra parte Matteo Salvini vorrebbe un asse con Forza Italia e con Toti, quindi un asse del nord, come diceva appunto il professore sondaggista, perché questa è la vera forza del centrodestra, però ci si rende conto che a quel punto si è sguarniti al sud e Angelino Alfano i voti al sud li porta. E quindi sai, c'è sempre questo problema, no? E in tutto questo c'è un Movimento 5 Stelle che sembra perdere un pochino di smalto, un po' per l'amministrazione Raggi a Roma, che è ferma e che continua a avere una serie di gaffe, una serie di problemi, non ultimo l'ATAC. Dall'altra parte questa uscita di Luigi Di Maio sull'abusivismo di necessità, no, delle case. A questo proposito, scusa Elisabetta, siccome stavo guardando anche i messaggi, non dei più timidi, di quelli che preferiscono scrivere WhatsApp ed SMS al 349-238-6666, ma c'è sempre il numero verde 800-24-0024, Giorgio Bertero scrive: colpisce l'endorsement di Di Maio sull'abusivismo edilizio, diventasse mai premier, cosa succede? Si chiede l'ascoltatore, si cementifica ovunque alla faccia di chi si comporta legalmente, chiede Giorgio, e quindi ci ricordi questa polemica? Questo è stato un po' uno scivolone di Di Maio. In realtà poi, come sempre, gli avversari politici si scagliano, no, duramente. Di Maio voleva dire un'altra cosa, lui voleva dire in regioni dove non ci sono stati piani urbanistici, dove non c'è stato nulla, dove c'era necessità di avere una casa, la gente si è costruita. Però questo qui non è un buon esempio. De Luca, il governatore della campagna PD, dice è inutile che noi ci giriamo intorno, le demolizioni costano tantissimo e per questo motivo che non si fanno. Cioè avere un occhio di realpolitik non vuol dire però giustificare quello che poi è stato fatto, che poi è lo scempio, no, delle nostre coste molto spesso. Già. Il problema secondo me dei 5 Stelle è anche c'è stato un problema in Sicilia di firme false, insomma, quindi c'è una situazione di rincorsa che da questo momento in questo momento sembrano esclusi, ma si sa che poi in Italia quello che succede il giorno prima dei sondaggi non conta, quindi può darsi invece che alla fine, malgrado tutto, i 5 Stelle ce la possono fare. Poi il problema è sempre lo stesso, però Di Maio avverte che non faranno alleanze, che se non c'è una maggioranza faranno votare i provvedimenti volta per volta, quindi sarà molto difficile governare una regione già ingovernabile come la Sicilia. Ricordiamo che con una maggioranza schiacciante come a Roma, il Movimento 5 Stelle sta deludendo le aspettative dei romani. Quindi lì bisogna vedere. Un'ultima parola sul premier Paolo Gentiloni, sì, che ricordiamo è stato fatto premier così, un renziano della prima ora. Lui a un certo punto ha incarnato un desiderio, secondo me, degli italiani. Dopo un anno e mezzo, due anni di violenta campagna tra il Movimento 5 Stelle, Salvini e Matteo Renzi, ricordiamolo che doveva portare a casa la famosa riforma del Senato dei 101, no? Del superamento del bicameralismo perfetto, bicameralismo paritario, un premier come Gentiloni che rassicura gli italiani piace agli italiani. E ricordiamo pure che Gentiloni potrebbe essere il premier indicato da Silvio Berlusconi all'indomani delle elezioni qualora nessuna delle tre coalizioni riuscisse a avere la maggioranza. E quindi se si va verso un governo di larghe intese, Berlusconi indicherebbe sicuramente Gentiloni e non Renzi, che lo tradì. Che tradì il famoso patto del Nazareno con l'elezione di Mattarella. Molto interessante questa analisi, soprattutto su Gentiloni, la possibilità che Silvio Berlusconi lo possa indicare come Presidente del Consiglio. Chiudo con te, cara Elisabetta Fiorito, e ti lascio agli altri tuoi impegni con questo ascoltatore che dice al 349-238-6666 se la politica dà il peggio di sé e anche perché voi giornalisti date loro troppa importanza come stamane. Ma sono loro che ci governano, non dobbiamo parlare, non dobbiamo dire che cosa fanno. Ti pare, Betta, con una battuta? Questo è anche vero, però purtroppo la democrazia è fatta di questo e soprattutto noi giornalisti li dovremmo controllare un po'. Aspetta, c'è un ascoltatore al numero verde 800 24 00 24, mentre un altro che scrive il messaggio al 349 238 6666 dice: certo che la vostra faziosità contro il Movimento 5 Stelle è vergognosa, Roma Raggi sta facendo benissimo. Quindi sappilo. Non so dove viva il radioascoltatore, io vivo a Roma e vedo dei disastri ovunque, però indipendentemente dalla Raggi, io ho parlato di Di Maio e ho anche spiegato le motivazioni di Di Maio. C'è Sandro? Sandro il numero verde? Eccolo qua, Sandro. Sì, buongiorno. Buongiorno, caro Sandro. Io sento sempre la vostra radio. E fai molto bene. Sì. I colleghi, mi piace, siete abbastanza bravi. Quindi abbastanza, sì. Io, abbastanza, sì, ma diciamo bravi. Bravi, di come vuoi, sì. Allora, io quello che dico è com'è possibile che la maggior parte degli italiani, viste le porcherie che combinano i nostri politici, ancora vadino a votare. Una persona molto più intelligente e molto più acculturata di me, che era Mario Monicelli, che ho grande stima, disse che in questo paese siamo ridotti in queste condizioni perché qui non c'è stata la rivoluzione, non siamo capaci a fare rivoluzione. Ma non ci vorrebbe una rivoluzione per fare cose tremende, basterebbe andare sotto il Parlamento e a Palazzo Madama a fargli capire a questa gente che la devono smettere. 945 deputati ci abbiamo noi, il doppio dell'America, che ha quattro volte la nostra popolazione, ma noi italiani veramente aspettiamo che qualcuno di questi ci governi, noi non sappiamo prenderci le responsabilità e allora deleghiamo a questa gente che non fa altro che fare leggi da 50 anni, leggi che stanno portando alla rovina questo paese. Io non capisco come gli italiani possano ancora andare a votare. Sandro, quindi tu non voteresti nessuno? Chi voteresti? Dici, bisogna fare la rivoluzione. Guardi, io ma una rivoluzione pacifica, non rivoluzione. Grazie Sandro, grazie Elisabetta. Per chiudere, vuoi rispondere all'ascoltatore molto sinteticamente? Il signore forse è grillino, e se è grillino è giusto che vada a votare Movimento 5 Stelle. Non l'ha detto cosa però brutta, la rivoluzione pacifica potrebbe essere quello. Ha ragione sul taglio dei parlamentari. Ricordiamo che in questo Matteo Renzi, nella sua riforma, che zoppicava per altri versi perché c'erano delle cose che non erano ben chiare, come i poteri del Senato, però un po' voleva tagliare, tant'è vero che voleva tagliare i senatori. Ogni rivoluzione, cioè diciamo così, ogni riforma istituzionale prevede poi un taglio dei parlamentari. Il problema è che col meccanismo di una Costituzione rigida, questa Costituzione è sempre molto difficile da cambiare. Credo che però bisogna andare a votare per tutti, per Forza Italia, per chi ci crede, per il PD, per il Movimento 5 Stelle, per la Lega, per tutti, anche i partiti più piccoli. Bisogna però sempre andare a votare, perché questo è il sale della democrazia, altrimenti si parla di populismo e di assenteismo che non porta da nessuna parte. Betta Fiorito, a questo punto ci dobbiamo salutare. Ti ringrazio di queste tue analisi politiche. E adesso direi di passare al prossimo tema. Betta, tu devi ritornare in vacanza? Ricordo che Betta Fiorito, tra l'altro, ha fatto a sua volta all'inizio Ma cos'è quest'estate per la prima settimana. Ci sentiamo allora quando. Nei prossimi giorni. Per vedere come evolverà la situazione in Sicilia. Giustamente, visto che ci avviciniamo, a novembre si vota. Ma la campagna elettorale, come sentivamo, è nel pieno della sua attività. Grazie Betta Fiorito. Ciao Betta. la mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets. Bellissimo Charles Trenet con La Mer, Charles Trenet dannato, una canzone bellissima, meravigliosa, tra l'altro in francese. La cosa particolare rispetto a come la vediamo noi, per esempio italiani, il mare è al femminile, quindi immaginatevi tutta la simbologia che noi diamo al mare, come invece si ripercuote su un termine e un concetto così al femminile come quello francese. Parliamo comunque di mari, di mar Mediterraneo in particolare, della salute o meno del nostro mare, con Serena Carpentieri, che è responsabile delle campagne Legambiente, responsabile di Goletta Verde, che è il veliero di Legambiente che insieme al Touring Club ha premiato Legambiente Touring Club qualche settimana fa le spiagge, le località migliori per quanto riguarda il mare. Però Goletta Verde poi ha fatto anche tutta un'analisi delle acque lungo le nostre coste, e mi pare, Serena Carpentieri, intanto buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Che non se la cavi benissimo il nostro mare da questo punto di vista? Sì, non molto bene. Quello che emerge dal bilancio di Goletta Verde è che il 40% dei campioni che abbiamo prelevato sono risultati oltre i limiti di legge su 260 campioni d'acqua prelevati lungo tutta la costa italiana. Quello che c'è da dire è che di questo 40% la maggior parte dei prelievi inquinati e fortemente inquinati li abbiamo riscontrati in prossimità di foci dei fiumi, canali e ma anche piccoli corsi d'acqua, perché appunto il problema arriva da monte, e l'inquinamento batteriologico, quello che noi insomma riusciamo a captare all'interno dei campioni d'acqua che preleviamo, è legato alla cattiva gestione della depurazione dei reflui. Quindi ci sono però delle regioni in particolare meno virtuose, vogliamo così dire, delle altre? Sì, allora quest'anno abbiamo puntato il dito su alcuni punti che risultano inquinati da anche più di 5 anni, quindi gli stessi punti che monitoriamo e che ogni anno puntualmente escono inquinati o fortemente inquinati, e abbiamo presentato un esposto, degli esposti, 11 esposti alle Capitanerie di Porto, segnalando i 38 malati cronici, li abbiamo definiti, e diciamo le situazioni più critiche si trovano in termini di numeri di punti segnalati, si trovano nel Lazio, in Calabria, in Campania e in Sicilia, però diciamo che tutte le regioni, nessuna regione costiera è esclusa da questo tipo di inquinamento. Serena Carpentieri, però vogliamo dirci che diciamo retoricamente da sempre che il mare è una nostra grandissima risorsa, che noi abbiamo tanti chilometri di coste, mi pare 8.000, e che potremmo vivere da tempo, insomma, sicuramente in buona parte di turismo, almeno nelle località marine, no? E che però dei depuratori, di una depurazione più efficace, più trasparente, si parla da tanti anni, è possibile che ancora siamo a questi livelli? Ed è tra l'altro una situazione irreversibile questa? Sì. Sì, è un problema purtroppo annoso e molto grave, che sta in una fase diciamo di stallo. Sicuramente sui quasi 8.000 chilometri di coste che abbiamo, diciamo, abbiamo dei luoghi meravigliosi, la nostra economia si basa sul turismo, sulle località balneari, come più volte abbiamo detto, però sicuramente diciamo proprio per questo dobbiamo poter investire su delle infrastrutture che siano più funzionanti, a partire dal servizio dei cittadini che ancora non hanno un depuratore fino all'efficientamento dei depuratori che invece in alta stagione non ce la fanno a depurare insomma tutte le acque reflue dovute appunto al grande afflusso di turisti sulla costa. Quello che sta succedendo nel nostro paese intanto è che abbiamo già a nostro carico 3 procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea, 2 delle quali sono già sfociate in condanna. Questo significa che noi già oggi paghiamo delle multe per non esserci adeguati alla direttiva sui reflui, come prevede la l'Unione Europea. Questo significa che per ogni giorno di ritardo sull'adeguamento dei depuratori noi paghiamo 350.000 euro al giorno. Questi sono costi che ricadono appunto su tutta la collettività. Quindi c'è un danno di tipo ambientale, ma c'è anche un danno di tipo economico. Certo, certo. Il ministro dell'Ambiente qualche giorno fa, appunto leggendo il report di Goletta Verde, si ha detto che appunto questi soldi sono a disposizione delle regioni per poterli investire, 2,5 miliardi, ci sono da diverso tempo, eppure diciamo i miglioramenti stentano a vedersi. Perché secondo voi di Goletta Verde, Carpentieri? Allora, indubbiamente cioè, scarsa opere... sensibilità, si usano poi soldi per fare altro, ci sono interessi allora, di qualcuno? Cioè... Intanto ci vuole insomma la volontà politica come in tutte le cose e sicuramente diciamo mettere mano alle infrastrutture della depurazione richiede insomma delle risorse economiche, ma soprattutto richiede una sinergia tra tutte le autorità, quelle locali, quelle regionali e quelle dello Stato. E spesso e volentieri diciamo c'è qualcosa che non funziona in questa sinergia, e poi c'è tutto il versante legato agli scarichi abusivi, quindi chi continua a immettere liquami non depurati all'interno della qualcuno della dovrebbe rete controllare fognaria. Però dovrebbe controllare qualcuno, no? Esatto, sì, poi quest'anno appunto l'obiettivo degli esposti è proprio quello di andare a verificare anche diciamo tutte le illegalità, quindi controllare lungo tutto il corso del fiume, perché poi diciamo i problemi non derivano necessariamente dai comuni che stanno sulla costa, ma anche da quelli dell'entroterra, e andare a capire diciamo dove si mettono questi scarichi non depurati e diciamo applicare gli strumenti di legge che abbiamo, non per ultimo la legge sugli ecoreati, che assimila diciamo il reato ambientale a un reato penale, quindi perseguire penalmente chi continua a usare i nostri fiumi e il nostro mare come discariche, fogne. Come fogne. È veramente esasperante questa cosa che ancora dopo tanti anni, decenni di cui si parla di queste cose, i nostri mari sono ridotti come sono. Evidentemente i turisti vengono lo stesso, magari non si rendono conto anche del livello di inquinamento dei nostri mari, però è davvero un grande dispiacere questo, perché se parlo appunto delle persone più grandi di età che hanno visto condizioni marine ben diverse, no? Che tesoro avremmo potuto avere, potuto conservare nel tempo. Sentiamo un ascoltatore su questo, Carpentieri, all'800240024, che è Silvio, che chiama da Pescara. Silvio. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. No, io veramente volevo tornare sull'argomento della politica di prima, l'avevo chiamato per questo, se posso ancora. Ma dei politici al mare, del mare con i politici o solo dei politici, Silvio? Dei politici in generale. Prego. Il signore che si lamentava della rivoluzione da fare, ma io dico che i politici ce li scegliamo noi, e dunque quando li scegliamo dobbiamo prestare più attenzione a chi scegliamo, tutto lì. Dunque informarsi di più. E la rivoluzione da fare è quella di avere un senso civico e di rispettare le regole, cominciando da noi, perché poi la politica è lo specchio della società. Siamo d'accordo, Silvio, su questo. E politici anche che sul tema che stiamo trattando adesso del nostro mare e del fatto che dovrebbe essere un tesoro da preservare, anche qui la politica c'entra, come dicevamo con Serena Carpentieri, anche in questo senso non è una cosa da sottovalutare, non è un aspetto qualunque del nostro vivere quotidiano, del nostro che riguarda il nostro paese, è davvero una ricchezza che avrebbe potuto essere un moltiplicatore anche dell'economia italiana. Serena Carpentieri, vuole fare una battuta di chiusura mentre ci salutiamo? Sì, a proposito dell'informazione ai bagnanti, prima dicevano che spesso le persone sono ignare diciamo della qualità del mare dove si trovano. Quello che abbiamo constatato lungo tutta l'Italia è che ad esempio nei punti che sono vietati alla balneazione, quindi dalle autorità competenti, mancano i cartelli nel 75% dei casi. Quindi noi abbiamo prodotto anche un report fotografico per diciamo, segnalare la mancanza di questi cartelli è il fatto che alle foci dei fiumi molte persone dicono ah, intanto nessuno va a farsi il bagno, invece specialmente nei piccoli corsi d'acqua le persone diciamo vanno a farsi il bagno, soprattutto i bambini che giocano insomma in quelle acque, e probabilmente sono ignari del fatto che diciamo in quei luoghi c'è un divieto di balneazione. Quindi c'è molto ancora da fare anche sul fronte diciamo dell'informazione, sia per quanto riguarda i divieti di balneazione, sia per quanto riguarda i cartelli informativi che invece spiegano la qualità delle acque anche nei punti balneabili. Questo invece è uno sforzo che devono fare in toto i comuni costieri, che sono ovviamente obbligati dalla legge a informare e tutelare la salute dei bagnanti. Siamo messi male, situazione deprimente. Grazie intanto a Serena Carpentieri di Goletta Verde, Lega Ambiente. Grazie a voi e buon proseguimento. E buon estate. Parliamo sì di orsi, e sapete che ha suscitato un consistente dibattito pubblico ma anche politico in questi giorni l'uccisione da parte della forestale in Trentino dell'orsa KJ2, che poi non so perché bisogna dare questi nomi complessi, magari c'è un motivo, si poteva chiamare Camilla o che ne so, Porfiria, era considerata pericolosa dopo aver aggredito due persone. Molti infatti, seppur concordi nel sostenere che bisogna controllare anche questi animali che magari si avvicinano agli abitati umani, ritengono un'ingiustizia il fatto che sia stata uccisa, e ha suscitato molte reazioni politiche, per lo più di sdegno nei confronti di questa uccisione, questa vicenda. Ne parliamo con Ugo Rossi, che è presidente della provincia autonoma di Trento. Buongiorno Rossi. Rossi? Non c'è ancora Rossi, chiamiamo Rossi, pensavo che ci fosse stato qualche orso di mezzo, ma credo per fortuna no. E poi Elda Verones, che è direttrice, Verones la chiamiamo dopo, Francesco Mongioi, che è coordinatore del comitato pro orso del Trentino Alto Adige su Tirolo. Mongioi, buongiorno, lei c'è? Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, lei è promotore di questo, coordinatore di questo comitato pro orso. Ci spiega molto in sintesi che cosa è successo, almeno dal suo punto di vista? Dal nostro punto di vista è successo che in seguito all'ultimo attacco di luglio, del 22 di luglio, noi preferiamo non parlare di aggressione, perché l'aggressione è un atto deliberato che non è proprio dell'orso. C'è stato un attacco, un'orsa, immaginiamo, si è sentita in pericolo perché c'era quest'uomo con il cane, ha portato un finto attacco, che è tipico degli orsi quando hanno qualche difficoltà, è arrivata troppo vicino al pensionato, il pensionato gli ha sferrato una bastonata in testa, e a questo punto è partito l'attacco fisico vero e proprio con ferite al pensionato. Con ogni evidenza l'orsa non voleva uccidere, perché altrimenti non avrebbe avuto alcun problema. Da qui è scaturita la caccia all'orso scatenata dalla provincia in maniera del tutto immotivata, perché tra l'altro la stessa provincia ha dichiarato che l'orsa si era comportata in maniera corretta, in maniera assolutamente aderente ai comportamenti della propria specie, e quindi insomma non aveva fatto assolutamente niente di anormale. Nonostante questo però è stata decisa l'uccisione. È stata decisa l'uccisione perché, sempre secondo il nostro punto di vista, perché l'orsa è ritenuta responsabile anche dell'attacco di 2 anni fa a Cadena al signor Molinari, che purtroppo ha riportato ferite ancora più serie, e quindi insomma anche per questo hanno ritenuto che l'orsa fosse pericolosa. Però nel frattempo, in tutto questo periodo, l'hanno dichiarata schiva e delusiva. Schiva e delusiva l'orsa? Schiva e delusiva, sì, per bocca dell'assessore alla caccia, il Michele Dalla Piccola, l'orsa è schiva e delusiva, cioè significa che sta lontana dagli uomini. per cui voglio dire, insomma, o quest'orsa è schiva e delusiva, no? Quindi sta lontana dagli uomini, oppure è pericolosa e si avvicina troppo agli uomini. Cioè, lei, Mongiuì, lei come molti che hanno contestato questa uccisione ritiene che in realtà l'orsa sia stata più o meno involontariamente provocata e che la si poteva anestetizzare e portare da qualche altra parte, in un territorio più circoscritto, lontana da insediamenti antropici, come si dice? Allora, guardi, indubbiamente il pensionato ha reagito per la paura, quindi non è che possiamo dire che lui, insomma, è il responsabile di qualcosa. Dell'attacco è il responsabile diretto alla provincia, dell'attacco e di tutti i feriti che ci sono stati in queste, negli ultimi anni, in due anni, è il responsabile della provincia che non fa niente per gestire correttamente la popolazione di orsi. Io ritengo invece che l'orsa andava lasciata libera, aumentare il presidio del territorio e finalmente fare informazione corretta su come ci si comporta nelle aree frequentate dall'orso. Mongiuì, mi ascolti, adesso ci dobbiamo salutare, stiamo cercando da un po' di contattare Rossi, presidente della provincia autonoma di Trento, la sua segreteria ancora non ce lo passa, siccome vorrei sentire un po' il contraddittorio tra di voi. Se lei ha pazienza, mette giù adesso, c'è il nostro giornale radio, poi ci risentiamo tra poco. D'accordo? A disposizione. Benissimo. A disposizione, grazie. A dopo, il numero verde per intervenire anche voi sulla vicenda dell'orsa. Era giusto ucciderla o forse bisognava solo sedarla e spostarla altrove? 800 24 00 24. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Ma cos'è quest'estate? È un mondo selvaggio, Wild World, cantava Cat Stevens, ed è un mondo selvaggio in cui ci sono esseri umani e animali che convivono, che dovrebbero convivere. Difficile questa convivenza. Abbiamo visto che non è il primo orso, l'orsa KJ2 che è stata uccisa in Trentino perché aveva aggredito un uomo che andava in giro con il suo cane, ed era stato questo il secondo caso. Molti, vi dicevo, hanno fatto sentire la loro indignazione, c'è stato un ampio dibattito pubblico ma anche politico, tanti hanno detto questa iniziativa non è stata autorizzata dal Ministero dell'Ambiente, è stato un atto arbitrario, in più poco intelligente, poco opportuno, perché l'orsa doveva essere sedata e portata altrove, visto che sono una risorsa del nostro paese, del nostro ambiente. Pensate che persino Dino Buzzati, grande giornalista e scrittore, sul Corriere della Sera denunciava la scomparsa degli orsi in Italia sulle Alpi già nel 1945, l'ha fatto con diversi articoli, in più aveva anche scritto, si era inventato una novella per le sue nipotine per intrattenerle, che poi dopo era andata a finire sul Corriere dei Piccoli, poi era diventata anche un libro. E questa favola raccontava nel 1945 la storia degli orsi buoni che scendono in città dalle montagne alla ricerca di cibo per ritrovare il figlio rapito dal loro re Leonzio, entrano in contatto con gli esseri umani, cominciano ad avere una certa confidenza, anche, diciamo, ad apprezzare una vita un po' più agiata, con il cibo a portata di mano, con varie comodità, finché invece qualcuno li ammonisce, dice tornate alle montagne, il re che li ammonisce alla fine della favola, e loro ritornano alle loro montagne. C'era una certa sensibilità già di Dino Buzzati negli anni 40, che scriveva diversi articoli, vi dicevo, a sostegno della loro salvaguardia degli orsi, già minacciata, pensate, appunto a fine degli anni 40. Quindi si è cercato di ripopolare nel corso degli anni, però questa convivenza evidentemente diventa problematica. Ne abbiamo parlato e ne continuiamo a parlare con Francesco Mongioi, che è coordinatore del Comitato Pro Orso del Trentino Alto Adige Sud Tirolo. Abbiamo aspettato per ora invano il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, che ci aveva dato appuntamento a 10 minuti fa. Continuiamo a chiamarlo, ma non c'è possibilità ancora di trovarlo. Non so se rientra nel tema di prima, politici in vacanza oppure no, o se sta cercando un altro orso, però lo aspettavamo. C'è Maurizio da Latina, intanto, il numero verde che potete fare anche per tornare su questa vicenda dell'orsa. Secondo voi è stato giusto ucciderla per la sicurezza degli esseri umani, per evitare altri attacchi, oppure c'erano altre alternative? 800 24 0024, Maurizio da Latina. Ecco, buongiorno, grazie di avermi dato questa opportunità. Grazie a te, Maurizio. E vi ringrazio di aver dedicato questo tempo a questo problemario. Allora, si parte da un'intervista del presidente della provincia che dice: il buon senso fa decidere una cosa del genere. Ma stiamo scherzando? Lo sa al suo ambiente, e forse dovremmo limitarci un attimino noi umani, che pensiamo di essere padroni di tutto, assolutamente. Come dire, un ladro che entra in casa, la persona si difende e noi ammazziamo la persona che si è difesa. È assurdo questo tipo di atteggiamento da parte degli uomini, da chi ha responsabilità un presidente della provincia che fa una digressione del genere. Io la ritengo, anche da politico, eccetera, gravissima. Certamente l'orso non vota, il signore certamente. Poteva anche forse, bisogna forse porre dei limiti, perché non possiamo accedere a tutto. Dobbiamo dare l'ambiente, e questa è la storia dell'orso, la storia delle volpi, le storie dei maiali, dei cinghiali, eccetera. Io penso che ognuno deve avere il proprio limite. Maurizio, ti ringrazio. Tra l'altro voglio chiederti, visto che siamo il giorno dopo Ferragosto, tu sei in vacanza in questo momento o no? Sei a Latina, lì? No, dove io sto lavorando, e proprio ieri ho fatto un intervento per gli incendi, perché appena c'è un po' di vento si incendia tutto. Voi sei un pompiere? Sei un vigile del fuoco? Sono le prime vittime. Sei un vigile del fuoco? Sei della forestale? Che fai? No, non sono, sono un volontario, sono un animalista, un ambientalista. Faccio le mie guerre, le mie cause per l'ambiente, anni di cause e tutto, perché si difende l'ambiente. Gli interessi purtroppo che ci sono dietro investono persone che dovrebbero invece essere gli autori di un equilibrio, di una difesa e tutto il resto. Le solite problematiche purtroppo. Grazie Maurizio, grazie. Grazie a lei. 800, grazie, 24 0024 per le vostre telefonate, oppure sempre il numero per messaggio WhatsApp, che è 349-238-6666. Ennio scrive, grazie per la trasmissione, grazie a voi. A proposito dell'orsa, si poteva anestetizzarla e portarla in un'area protetta. Ora incontrerai Rossi? No, purtroppo non risponde. Persona prepotente dice, vabbè, non abbiamo la possibilità di sentirlo. Ennio questo scrive. Ritorno ancora sui messaggi con Fernanda, che dice: l'orsa andava sedata, chi ha stabilito la sua fine farà la stessa fine. Vabbè, questo senza minacce, gli ambientalisti si sono mossi, c'è stata grande polemica, però sempre, diciamo, bisogna rimanere nei toni, nei comportamenti civili. Fra l'altro leggevo un comunicato, una nota dell'AIDA, dell'Associazione per la difesa dell'ambiente, che diceva che alcuni turisti stanno disdicendo le loro prenotazioni in Trentino. Adesso non c'erano i numeri, magari una piccola minoranza, però per dire che questa cosa ha suscitato numerose reazioni. Ritorno con Mongioi, Francesco Mongioi, ripeto, coordinatore del Comitato Pro Orso. Avrei voluto il contraddittorio con Rossi, ma non risponde Mongioi. Quindi, rispetto anche a questi commenti, vogliamo anche dire, visto che lei evidentemente conoscerà, insomma, gli orsi, il loro comportamento, cosa bisogna fare per, nel caso si facesse questo incontro del terzo tipo? Sì, guardi, intanto mi permetta, volevo anche dire che in questo momento rappresento un gruppo di associazioni che hanno fatto ricorso al TAR contro la delibera di uccisione di KJ2. C'è un gruppo di associazioni che è assolutamente determinato ad andare avanti fino ai più alti gradi di giudizio per bloccare lo sterminio degli orsi annunciato dal presidente Rossi. Mi dispiace che non sia... No, forse adesso dovremmo riuscire ad aggiungerlo, ecco, si spera. Ha annunciato lo sterminio degli orsi, non credo però, Mongioi, adesso sì, lo ha sentiamo. Detto che questa qui, che questa dell'uccisione sarà la modalità di gestione degli orsi che loro considerano pericolosi per gli uomini. Tradotto, uccideremo tutti gli orsi che troviamo antipatici. Loro lo dicono sempre che ci sono troppe orsi, che così noi, che quindi bisogna limitarne il numero, perché le dico, noi, il nostro pensiero è che sono rimaste sorprese all'epoca dal successo del progetto. Loro pensavano di portare avanti un progetto che sarebbe fallito, ma che comunque, proprio perché lo portavano, avevano pensato di portarlo avanti, e gli avrebbe dato ritorno pubblicitario. Come con la presenza degli ORS guadagnano un sacco di milioni di euro perché risparmiano sulla pubblicità, no? Per cui non è possibile stabilire, no? Teniamo 10, 15, 20 ORS, 5, no? E gli altri li uccidiamo, dice Rossi. Questo è il punto, no? Mentre invece, per mantenere viva la popolazione, è necessario sul territorio, dicono gli esperti, non lo dico io, anche un esperto che si è pronunciato recentemente in Trentino, c'è bisogno di 100 ORS riproduttivi. Buongiorno, forse abbiamo raggiunto Rossi. Intanto ci sono ascoltatori che scrivono in modo polemico. Ivano, per esempio: anche topi e scarafaggi hanno il loro ambiente naturale che l'uomo sistematicamente invade, basta con lo sterminio della deratizzazione. C'è chi quindi apre un po' tutta la sfera animale, di tutti i tipi di animali, la possibilità di preservarli. Beppe d'Arezzo dice: gli animalisti sono degli imbriachi, non confondete gli uomini con gli animali, eccetera eccetera. E poi finalmente Ugo Rossi, presidente della provincia autonoma di Trento, l'aspettavo da un po'. Rossi, buongiorno. Buongiorno, ero in auto e non si prendeva la linea. Passaggio di telefonate dal mio ufficio al mio telefono è stato complesso, è stato piuttosto complesso, devo dire. Comunque adesso funziona tutto. Benissimo, Rossi. E come funziona adesso la gestione degli orsi? Sentito Mongiuì, non so se ha avuto possibilità di sentire. Funziona benissimo, nel senso che ho sentito solamente una parola alla radio, poi ho sento per non disturbare nella telefonata, per non fare il ritorno. Ho sentito la parola sterminio di un signore che parlava. È Mongiuì. Signor Mongiuì, parlava di sterminio. Guardi, io le dico, questo è un progetto che è nato 20 anni fa, che non è stato voluto da questa amministrazione, ma dall'amministrazione che c'era allora, ed è un progetto che ha visto, parlando di sterminio, crescere la popolazione degli orsi in Trentino, unica provincia in Italia, a parte il Parco Nazionale d'Abruzzo, ad avere degli orsi di questa specie. I numeri sono presto detti. Parlando di sterminio, erano zero nel 1998, oggi ce ne sono più di 50, tra i 50 e i 55, insomma il numero varia perché, trattandosi di specie selvatica, evidentemente non possono essere tutti con la carta d'identità. Quindi quanti ce ne sono? Una cinquantina circa. E questo è lo sterminio che è stato fatto in Trentino. Io vorrei lanciare una proposta a tutte queste persone che fanno una continua opera di disinformazione, perché parlare di sterminio quando questo è l'unico posto dove ci sono gli orsi, veramente non capisco. Parlare di mala gestione quando questo è l'unico posto dove ci sono, veramente non capisco. Ma accetto la sfida, nel senso che se ci sono residenti, sono quasi tutti residenti fuori Trentino, quelli che anche magari ci minacciano a volte, purtroppo succede così, sono talmente sensibili nei confronti degli animali che minacciano gli uomini, ma pazienza, io porto pazienza. Però vorrei fare una proposta a tutto questo mondo animalista che parla dal salotto di casa con le pantofole. Perché non fa una proposta in ogni regione dove risiede e propone ai governatori delle regioni di accogliere un certo numero di esemplari di orso, così magari... Qui sembra la questione dei migranti, questa della ricollocazione. Non è una battuta, non è una battuta. Non banalizziamo sempre tutto. No, è non una banalizzo. Cosa non so come fanno a prendere, non so, anche in Lombardia. Sa qual è il risultato che potremmo avere? Potremmo avere questo risultato, che invece di averne 50 su tutte le Alpi, magari potrebbero essere 200 o 300. Anche se è chiaro che devono avere il loro habitat idoneo, Rossi. Non so se ci sono tutte le regioni. Quindi, vede, la tranquillità e di correttezza di coscienza e di scienza sta nel fatto che noi abbiamo fatto il massimo e continueremo a fare il massimo per la sopravvivenza della specie dell'orso. Ma la sopravvivenza della specie deve andare al di là del caso singolo. In tutto il mondo dove gli orsi sono problematici, e gli esemplari problematici sono sempre molto pochi rispetto a quelli che non lo sono, perché l'orso è un animale schivo. In tutto il mondo si agisce esattamente come abbiamo agito noi. Mm. Rossi, io non ho, vorrei sentire un ascoltatore, mi scusi, all'800... Sì. Non ho notizia di nessun esperto. Il massimo esperto mondiale al mondo di orsi si chiama Svensson, è uno svedese, io inviterei ad andare a leggere le sue biografie. Una persona naturalmente non certamente dedita alla caccia o che non si sia mai battuta per l'ambiente, dicendo come Reinhold Messner, ha detto con una grandissima tranquillità e senso pratico che il Trentino è la terra che si è impegnata per la tutela degli orsi e che quando succedono episodi di questo tipo è assolutamente normale che un orso possa essere rimosso. Grazie Rossi, sentiamo 800 24 00 24, Emma da Roma, sentiamo l'ascoltatrice. Emma, buongiorno. Senta, a me sembra che ci manchi proprio. No, Emma, non si capisce niente, scusami col telefono. Ecco, mi sembra che ci manchi un'educazione a stare nella natura. Ora si sente? Sì, ora si sente. Ecco, io ho avuto un padre partigiano che in tempo di guerra è stato sui monti dell'Abruzzo, ha incontrato più volte col suo cavallo e il suo cane gli orsi e mi ha insegnato come fare in presenza di un orso e di un cinghiale. Cioè di come non si deve reagire, di come ci si deve comportare. Però se adesso si sentono soltanto gli esperti teorici e ai ragazzi si lascia vedere l'orso soltanto sul computer, non arriveremo a niente, perché il contatto con la natura che educa. Ecco, solo questo volevo dire. Grazie Emma, sei stata sintetica. Mongiui ci spiega in sintesi, perché ci dobbiamo lasciare. Io avrei dovuto chiudere questo argomento già parecchi minuti fa, abbiamo aspettato per riuscire a collegarci con Rossi, che aspettavo più o meno dalle 9:00-10:00. Mongiui, come ci si comporta se si incontra un orso? Se si incontra un orso, allora bisogna evitare di incontrarlo, quindi quando si va nei boschi possibilmente non andare da soli, comunque fare rumori. Se proprio ci si deve portare il cane, portarlo al guinzaglio. Se si è visto un orso bisogna fermarsi, tornare indietro sui propri passi, perché l'orso, ci dicono gli esperti, non ci vuole incontrare, quindi a una certa distanza già ci sente o ci annusa, a una distanza inferiore che è circa 70 metri, dice un esperto norvegese, l'orso invariabilmente scappa. Quindi se disgraziatamente poi alla fine, no, per via di chissà quale congiunzione astrale, si arriva proprio troppo vicino, bisogna restare fermi, rannicchiarsi a terra con la testa sulle mani, se si ha lo zaino, cioè con le mani sulla testa, se si ha lo zaino, proteggersi con lo zaino e restare fermi, perché quello che è importante è che l'orso capisca che non siamo una minaccia. Capisco che una volta che uno si trova un animale di quelle dimensioni a pochi metri, a un metro, si fa prendere dal panico, ci mancherebbe altro, no? Cioè è normale. E allora per questo ho sempre proposto alla provincia, che ha sempre rifiutato la nostra collaborazione, delle attività di informazione specifica e di addestramento su come ci si comporta nel caso. Questo può essere molto utile. Mongiui, adesso devo assolutamente chiudere, perché poi c'è anche Elda Verones, quindi saluto il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, Francesco Mongiui, coordinatore del comitato Pro Orso del Trentino Alto Adige. Grazie, adesso Elda Verones, buongiorno. Buongiorno. Lei è direttrice dell'azienda promozione turistica Trento Monte Bondone e voi fate delle visite guidate agli orsi? No, noi comunque organizziamo delle iniziative sui percorsi dove ci sono anche gli orsi, quindi c'è la presenza degli orsi sia in Valle dei Laghi che sul Monte Bondone. I turisti partecipano alle escursioni, si informano su come comportarsi in queste zone di presenza degli orsi, apprezzano il progetto, apprezzano appunto la sensibilità delle istituzioni che hanno avuto questa idea di concepire negli anni 90 la ripopolazione degli orsi in Trentino. Dobbiamo ricordare che insomma erano presenti nei Dolomiti di Brenta, è una storia antica quella dell'orso in Trentino, e sono sorpresi di questa presenza ma anche curiosi di incontrarlo, specialmente i turisti stranieri. Credo che le linee adottate dalla provincia, appunto, della reintroduzione del plantigrato e anche le attività di informazione che vengano fatte sono molte, e in Trentino è uno dei territori più evoluti nella salvaguardia dell'ecosistema e nell'utilizzo consapevole del territorio. Quindi da parte degli ospiti c'è un apprezzamento e c'è anche la curiosità di magari poter incontrare loro. Leggo un messaggio al 349-238-6666 di Michela da Matera, che dice: improponibile proporre come possibile gestione degli orsi lo spostamento degli stessi in altre regioni prive del loro habitat, come proponeva invece Rossi. L'uomo deve entrare con rispetto degli animali e non pretendere vendetta per i suoi errori di valutazione. Dice: l'uomo col cane probabilmente a caccia era disinformato, certo, insomma, è stato preso un po' alla sprovvista. Poi un altro messaggio che dice: non sono d'accordo con l'uccisione di quest'orsa, non capisco assolutamente questo tipo di gestione della sicurezza, informazione, limitazione, aree suggerirei piuttosto, e sapere che ci sono 50, 100, 200 orsi ancora vivi non giustifica assolutamente l'uccisione. Bene, direi che a questo punto su questo argomento possiamo chiudere e salutarci. Grazie anche a lei, Elda Verones. Grazie e buona estate. Grazie. Grazie a voi. C'è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai. Diciamo, gli incontri del terzo tipo non si fanno solo con gli orsi, magari fossero solo loro causa dei nostri problemi di sicurezza, invece diciamo, periodo di vacanze, fra i vari problemi in cui si può incappare, c'è lo svaligiamento, il furto in casa. Allora, proprio in queste settimane è partita l'operazione Città Sicure, con migliaia di agenti di polizia in azione in questi giorni, in particolare per prevenire i furti appunto nelle case. 800 24 0024, vi ricordo ancora una volta il numero verde se voleste intervenire anche qui per fare delle domande, perché parleremo di come avviene questa operazione di prevenzione e di contrasto, ma anche di cosa fare per esempio per le serrature, le porte blindate, per evitare che i ladri possano aprire con facilità le porte d'ingresso. Maurizio Vallone, direttore del Servizio di Controllo del Territorio. Buongiorno, dottor Vallone. Buongiorno. Allora, a proposito di questa operazione Città Sicure, ci dice in breve in cosa è consistita e se ancora è in atto? Sì, l'operazione è sicuramente ancora in atto, è stata disposta dal capo della polizia proprio per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini che sono in vacanza, lontano dalle città, dalle loro abitazioni, per prevenire quello che è un fenomeno assolutamente odioso, forse uno di quelli che maggiormente colpiscono il cittadino: tornare a casa e vedere la propria intimità nella casa violata da un furto, da una sottrazione di beni sicuramente valutabili economicamente, ma spesso anche affettivamente, perché nella casa sappiamo che mettiamo quello che c'è di più caro, i ricordi di un'intera vita a volte, e quindi trovare che una casa è stata violata da un estraneo ed è stata derubata di tutto ciò che contiene, è sicuramente uno dei fenomeni criminali più odiosi. Certo. che possono avvenire. Abbiamo messo in campo quasi 5.000 uomini al giorno per prevenire questo fenomeno, abbiamo controllato in soli 3 giorni 55.000 autovetture, arrestato 50 soggetti dediti a questo tipo di attività, ma la cosa più importante è che questa attività di prevenzione sicuramente sta consentendo di scoraggiare questo fenomeno e abbinata con un'attività di misure di prevenzione personale, cioè un allontanamento dei comuni di quei soggetti pregiudicati che non risiedono in quella zona, spesso anche cittadini extracomunitari, ma qualche volta anche italiani in trasferta proprio nelle città che vengono maggiormente abbandonate dai cittadini perché giustamente si concedono un periodo di vacanza, grazie appunto a divieto di ritornare in quei comuni, funge da fortissimo deterrente, da fortissima prevenzione, e speriamo di vedere a fine mese una consistente diminuzione di questo reato. Vallone, allora vorrei che sentissimo un passaggio della conferenza stampa del ministro dell'Interno Minniti appunto anche sull'operazione sicurezza nel nostro paese. Stiamo. Noi abbiamo avuto nei primi 7 mesi il quadro di un paese accogliente, di un paese che ha avuto livelli buoni di sicurezza. L'andamento è chiarissimo, noi abbiamo un quadro che ci dice che i delitti sono diminuiti del 12%, gli omicidi del 15%, quelli attribuibili alla criminalità organizzata sono diminuiti del 41%, le rapine dell'11,3% e i furti del 10,3%. Naturalmente queste sono le statistiche ed è chiaro che il lavoro che noi facciamo quotidianamente è quello di avvicinare le statistiche al sentimento dell'opinione pubblica. Quindi questo è il bilancio che ha fatto ieri in conferenza stampa il ministro Minniti. Vallone, se dovesse consigliare a tutte le persone che lasciano per un certo periodo la casa incustodita perché devono andare in vacanza o si devono comunque allontanare, cosa consiglierebbe? Guardi, i consigli possono essere tantissimi, ma fondamentalmente ci sono due valutazioni da fare. Il primo è chiaramente quello di costi e benefici, cioè che cosa lascio a casa di fondamentale, di importanza e quanto voglio spendere per una prevenzione. E quindi su questa base, su questa valutazione si può realizzare di tutto, da blindare la casa a mettere dei semplici servizi di videosorveglianza, ormai ce ne sono di tutti i tipi, anche collegati ai propri smartphone che segnalano sul proprio cellulare un'eventuale effrazione, un ingresso o un tentativo di furto, e anche a costi ormai estremamente modici, insomma parliamo di qualche centinaia di euro ormai per mettere una telecamera collegata con il proprio cellulare. Ma al di là di questo, credo che la forma più importante, che per fortuna in Italia continua a funzionare bene a differenza di altri paesi, è quello del controllo sociale. Un controllo attraverso il condominio, attraverso i vicini, quindi una rete di allarme umana che in Italia è ancora presente, soprattutto in molte zone, anche nelle più piccole rispetto magari alle grandi città, consente di avere una possibilità maggiore di intervento, di allarme, di segnalazione alle forze dell'ordine. Quello che diciamo sempre è segnalate sempre la presenza di persone strane, di persone che non abitualmente risiedono o soggiornano in quella zona, persone che possono destare sospetti. Di fronte a un controllo di polizia possono essere messe in condizione di non poter nuocere, almeno in quella zona, perché appunto magari vengono sottoposte poi a misure di prevenzione, sono costrette a lasciare quel territorio, non possono più farvi rientro pena l'arresto e quindi poi cambiano zona di operazione finché non vengono colti in flagranza. La flagranza di questo reato è particolarmente difficile perché è un reato che si consuma in pochi minuti, quindi è necessario che ci sia un allarme abbastanza urgente per consentire alla nostra volante di poter intervenire su un momento. Quindi un'attività di prevenzione è sicuramente fondamentale. Garantirsi attraverso dei sistemi, e soprattutto se si abita in zone particolarmente isolate, garantirsi attraverso dei sistemi di videosorveglianza è sicuramente opportuno. Ripeto, ce ne sono per tutte le tasche. Vallone, lei dice giustamente di segnalare, a che numero in particolare? Perché sa, nei giorni scorsi c'è stata un po' questa polemica sul 112 che diventa il numero unico europeo per le emergenze, insomma, di qualsiasi tipo, se qualcuno sta male o se bisogna chiamare le forze di polizia, che numero è meglio fare in questo caso? Allora, il numero unico europeo di segnalazione 112 funziona in alcune regioni, ancora non è esteso su tutto il territorio nazionale, comunque sia anche dove funziona il call center laico, detto costo internaico, quindi organizzando anche regioni, e anche se si fa il 113, il 115, il 118, risponde sempre lo stesso centralino, per cui il numero viene convogliato sempre sullo stesso centralino. Quando ci sono situazioni di allarme di polizia, immediatamente il call center gira questa informazione a una forza di polizia che è competente per territorio in quel momento per il controllo del territorio, quindi quella più vicina o quella che nell'ambito dei piani provinciali di ordine e sicurezza pubblica elaborati da un prefetto vengono assegnati ai carabinieri o alla polizia di Stato a secondo della competenza quel periodo in quel territorio. E la segnalazione normalmente sono abbastanza veloci, poi è chiaro che nel periodo estivo può capitare qualche disfunzione per qualche assenza magari di troppo, ma queste poi sono problematiche che riguardano chi organizza questo tipo di servizio, in genere sono le regioni che organizzano questo tipo di servizio, e così come in un ospedale, così come in qualsiasi altro ufficio pubblico, può capitare che ci sia un momento di diciamo di malfunzionamento del servizio, però una generalità dei casi è che il servizio funziona abbastanza bene, nel giro di pochi secondi la chiamata viene girata alla forza dell'ordine competente e grazie a questa organizzazione possiamo meglio distribuire le nostre risorse sul territorio e garantire quindi un intervento di polizia estremamente più efficace. Grazie allora Maurizio Vallone e buon lavoro e buona estate. Grazie a lei. Grazie. Ma porta via la roba? Ma scusate, voi credete che al mondo d'oggi si possa diventare ricchi rimanendo onesti? Voi siete onesti? Io sì, loro non lo sono. E siete ricchi? No, anzi, no. Né avete la speranza di diventarlo mai. Io invece vi insegnerò il mestiere più bello del mondo, che può fruttare altissimi guadagni esentasse senza nessun rischio. Sì, vabbè, scusi, sai, io sono del mestiere perché faccio la guardia. Scusi signor zio, voglio dire, ma rischi un po' mi sembra che ce ne siano, sai, in questo mestiere. No, perché ladri non si nasce, ma si diventa. Scuola di ladri, ladri non si nasce ma si diventa, insomma, diciamo con un po' di apprendistato. Questo era il film con Giorgio Albertazzi, vi ricordate? E poi c'erano Banfi, Boldi, Paolo Villaggio che avete sentito, è scomparso da poco. Perché restiamo su questo argomento della sicurezza, del prevenire i furti in casa, con Luca Ceresa, che è uno dei titolari di Sicura Domus, che si occupa appunto di sicurezza delle case, di porte blindate. Ceresa, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Voi siete qui a Milano, no? Che cosa, esatto. Quali sono gli strumenti per cercare di evitare di rimanere vittime di questi reati? Ma guardi, allora innanzitutto va fatta una distinzione fra quelli che sono i sistemi di protezione attivi di un appartamento, quindi impianti di allarme piuttosto che videosorveglianze, come diceva l'ospite di prima, e così via, da quelli che sono i sistemi passivi. I sistemi passivi, diciamo, sono la prima forma di protezione di un appartamento e quindi la tipologia di porta che è montata, ma ancora più importante il tipo di serratura che è montata sulla porta. Vengono poi feriate, tapparelli di sicurezza e tanti altri sistemi. Quello che però negli ultimi anni si è molto sviluppato è appunto il furto in appartamento senza apportare nessun tipo di scasso alla porta. Come fanno? Questo perché per la grande maggioranza delle porte che sono montate le tipologie di chiavi utilizzate sono denominate chiavi doppia mappa, per intenderci sono chiavi lunghe con i dentini che escono da una parte e dall'altra. Le vecchie chiavi sono queste, Ceresa, no? Esattamente, esattamente. Cosa è meglio sostituirle per questione di sicurezza? Perché quello lei dice che normalmente viene fatto, esatto, è sostituirle con un cilindro profilo europeo, cilindro di sicurezza, e proteggere questo cilindro con un Defender. Quindi è un'operazione che è quasi sempre fattibile su tutte le porte e che aumenta sensibilmente la vita. Ceresa, la sento poco, non si muova col cellulare, stia fermo per favore. Scusi, poi io l'ho interrotta perché lei stava dicendo che quindi è facile, senza bisogno di scasso, con le chiavi tradizionali, che cosa fanno, per curiosità? Ma esistono degli attrezzi che permettono di aprire queste porte, queste serrature senza appunto scasso. Quindi è meglio cambiarle con la cosiddetta chiave europea, mi pare che chiave, sia. Sì, che dice... sì. Il cilindro profilo europeo, cilindro IALE ha tanti nomi, però l'importante è che sia un cilindro di sicurezza, quindi con chiave non duplicabile, un cilindro che abbia comunque tutta una serie di brevetti che lo pongono appunto fra quelle chiavi difficilmente apribili o manipolabili, e ancora più importante proteggere questo cilindro con un adeguato Defender. Negli ultimi anni sia... Defender cosa sarebbe? L'allarme? No, il Defender è una borchia di acciaio che protegge il cilindro e la serratura da tentativi di rottura, strappo, foratura, tutti quegli attacchi diciamo portati a distruggere la porta e la serratura. Per chiudere, Ceresa, per chiudere non solo la porta, ma anche diciamo l'argomento, che costi può avere questa operazione, questa sostituzione di serratura? Guardi, varia molto a seconda della porta in questione, nel senso che gli stessi costruttori di serrature sono molti, quindi parliamo di qualche centinaia di euro fino a poter arrivare a superare anche il 1000-1200 euro. Dipende proprio, sì, dipende proprio dalla tipologia di porta e dai prodotti che si possono montare. Per dire cilindri di sicurezza, partiamo da una spesa di 60-70 euro e possiamo arrivare anche a cilindri che costano 400-450 euro. Che forse è la spesa media, mi pare di aver sentito, sui 400 euro per questa chiave europea. Sì, ecco, diciamo che io adesso indicavo il costo dei cilindri. Ricordo che per fare il lavoro sulla porta bisogna cambiare la serratura, montare un cilindro che aziona la serratura e montare un defender che protegge il cilindro e serratura. Per chiudere definitivamente, i tempi dell'operazione? I tempi dell'operazione richiedono da un paio di ore fino a una mezza giornata, appunto, secondo della complessità della porta. Quindi, e dell'operazione da fare. Vedete un po', dico l'ascoltatrice e ascoltatori, se ne vale la pena, probabilmente sì. Grazie Luca Ceresa, di Sicura Domus. Grazie a lei. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Buon lavoro, pausa, poi parliamo invece delle relazioni sentimentali d'estate, di questo fenomeno degli SNIT. Numero verde per voi, 800 24 00 24, oppure, se preferite, messaggio WhatsApp 349 238 6666. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Ma cos'è quest'estate? Limonare tantissimo. Tantissimo. Oh. Come stai senza me? Come stai, amore bellissimo? Come sto senza te? Come sto, amore malissimo? A lasciarti da sola, ho sbagliato a chiamarti una sola, ora do dell'idiota me stesso e lo dico fortissimo. E parliamo forte piano di relazioni sentimentali, perché si sa, la stagione dell'estate, la stagione degli amori che nascono, delle seduzioni, degli amori anche che si rompono e anche di quelli che si rinsaldano, insomma, a seconda degli equilibri, diciamo, delle interrelazioni umane. Ne parliamo appunto perché è la stagione giusta e opportuna, e anche perché è ritornato sui media, sui giornali, questo fenomeno degli SNIT, che significa l'acronimo americano Single Not in Engagement, in Expecting, in Toying, cioè persone single che preferiscono rimanere sole volontariamente e non cedono né la storia d'amore impegnativa, neanche i flirt, diciamo le avventure passeggere, semplicemente dicono meglio soli che male accompagnati, anche perché probabilmente, diciamo, lo stare a compromessi, il condividere, il dividere con altre persone, anche il sedurle prima di tutto, diciamo, richiede un certo impegno, e c'è anche chi non ha nessuna voglia e intenzione di sottoporsi a tutto questo. Quindi è un fenomeno che riguarda anche l'Italia, c'è un rapporto Istat Coldiretti che parla di 7.700.000 persone di SNIT di questo tipo, ben il 41% in più rispetto a 10 anni fa. Ne parliamo con gli ospiti che sto per salutare, che sono il professor Emanuele Iannini, specialista andrologo e professore di endocrinologia e sessuologia medica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Buongiorno Iannini. Buongiorno a tutti, buon'estate. Buon'estate. Poi l'avvocata Anna Maria Bernardini De Pace, famosissima matrimonialista, autrice, l'ultimo libro si chiama Legami e Slegami, a chi crede nell'amore ma è consapevole che può finire, quindi sottotitolo è la dice lunga. Bernardini De Pace, Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Roberta, buongiorno, e poi, grazie di aver citato il mio libro. Grazie, poi ne parleremo. E Elisabetta Fernandez, sociologa, sessuologa, presidente di Istituto di Studi sulle Relazioni Sociali. Elisabetta Fernandez, buongiorno. Buongiorno anche a te. Tra l'altro diciamo, quello per esempio delle cosiddette bambole gonfiabili è un fenomeno che sappiamo, diciamo, è sulla cresta dell'onda da tanto tempo, però adesso sembra che ci sia una crescita dell'acquisto di queste bambole, le sex dolls come vengono chiamate, e pare che ci sia un mercato che vale 30 miliardi di dollari. Pensate che business, le bambole del sesso che diventano sempre più realistiche, tra l'altro, e c'è chi è pronto a pagare fino a 70.000 dollari per la propria bambola personalizzata, magari che assomiglia a una donna che si conosce o che si desidera. E poi c'è un altro fenomeno, diciamo anche più inquietante, che è questo invece delle reborn dolls, che sono le bambole rinate, sono dei bambini finti, però in silicone, in un tipo di materiale che li fa sembrare effettivamente veri e vivi, e che hanno capelli, che sembrano veramente dei bebè. Ci sono delle donne che così per gioco, o perché non hanno voglia di avere figli veri, che danno ben altri problemi, o perché non possono, comprano questi bambolotti che praticamente sono delle copie di bambini da 0 a 3 anni, che possono costare anche fino a 20.000 euro. Cosa significa tutto questo? Che c'è difficoltà ad avere delle relazioni autentiche, poi sapete tutti i social, il virtuale di cui si parla da tanto tempo. Quindi con questo siamo arrivati alla pausa per aggiornare chi sta viaggiando, e gli ospiti sanno appunto di cosa parliamo. Delle Reborn Dolls parleremo poi con Loredana Molina. Insomma, un sacco di ospiti per le vostre telefonate. 800 24 00 24. Ma cos'è quest'estate? Ti scatterò una foto Ricorderò e comunque, e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso, pensarti come un gioco. E capendo che ti ho perso, ti scatto un'altra foto. Emanuele Iannini, quindi rispetto alla premessa che facevo all'introduzione, cosa pensa? Che effettivamente è un luogo comune, o effettivamente si va verso sempre più la difficoltà di interagire con il prossimo e di entrare in una relazione effettiva, concreta? Si preferiscono le bambole gonfiabili, i bambolotti, i social? Dunque, questa cosa si chiama, ed è vecchia come il mondo, si chiama feticcio, questo oggetto. In tutte le culture, in tutti i momenti della storia c'è questo tentativo di costruire un oggetto, un simulacro che in qualche modo soddisfi delle necessità che non vengono soddisfatte altrimenti. Quindi in realtà non è particolarmente originale. Non è cosa nuova, però è più diffuso ultimamente, possibile? Certamente lo è, perché è molto più facile costruirlo, perché è molto più facile diffonderlo e perché il feticcio è molto più vicino alla realtà. Questa è la differenza. Se io devo fare un bambolotto fatto di stoppia, di legnetti e di foglie, è ovvio che questo molto più lontano, ho bisogno di molta più fantasia per rappresentarne diciamo l'oggetto che mi interessa, mentre invece adesso attraverso la tecnologia diventa veramente un simulacro molto molto simile e anche relativamente accessibile, e questo diciamo ne favorisce la diffusione. Ora, questo è sempre esistito, c'è sempre stato, perché effettivamente appunto c'è difficoltà che fa parte dell'essere umano, non è così scontato e così semplice riuscire ad interagire con altri esseri umani. Ora, in sé non c'è un motivo di allarme particolare. Dov'è l'allarme? Dov'è invece in qualche modo l'elemento patologico, se così vogliamo dire? L'elemento patologico consiste nella famosa storia della volpe e dell'uva, non dum matura est, cioè quando rinuncio a qualche cosa che potrei avere con un pochino di sforzo, magari una scaletta che mi permetta di arrivare all'uva, rinuncio e dico l'uva non è matura e quindi pronuncio a Roma, e quindi me la costruisco di plastica, per così dire, bene, allora in quel momento si riscontra l'elemento patologico. Mm. In altre parole, molto rudimentalmente, la bambola gonfiabile non mette in allarme il sessuologo, lo mette in allarme nel momento in cui è l'unico modo per entrare in relazione alla sessualità, quando si potrebbe accedere altrimenti, non attraverso il feticcio, ma attraverso, diciamo, la persona reale. Elisabetta Fernandez, dal punto di vista del sociologa, come la vedi questa situazione oggi? Le cose stanno peggiorando, è semplicemente un'evoluzione normale nel percorso della storia umana? Mi associo completamente alla teoria che non è un segnale di allarme vero e proprio, è semplicemente un'evoluzione dei tempi e purtroppo c'è difficoltà ad iniziare delle relazioni. Comunque, nonostante il limite tra comportamento normale e anormale non possa assolutamente essere stabilito in un modo rigido, resta pur sempre condizionante la presenza di un paradigma di riferimento che è legato al contesto sociale, per cui noi dobbiamo tenere sempre presente una serie di indicatori prima di poterci esprimere su un fenomeno. Il discorso delle bambole gonfiabili chiaramente rimanda il nostro pensiero alla favola antica di Pigmalione. La differenza però è sostanziale. Pigmalione invoca la dea affinché la sua statua possa diventare una donna in carne ed ossa, adesso noi cerchiamo di invocare la tecnologia che, pur nella sua presunta onnipotenza, non ha sicuramente il potere degli dèi. Quindi il discorso della bambola gonfiabile è un discorso di autoerotismo raffinato, di oggettivazione sessuale, è un fenomeno nuovo eppure antico, del quale non possiamo non tenere conto, riflettendo molto sull'importanza della relazione sociale, dell'interazione, che sono diventati dei percorsi tanto difficili per tutti. L'essere umano tende a chiudersi in se stesso, invece aprirsi verso gli altri, entrare negli altri, essere negli altri e parte degli altri, forse è il segreto per una vita migliore. Elisabetta, adesso passerei quindi la parola direttamente a Anna Maria Bernardini De Pace, da matrimonialista. Anna Maria, la difficoltà di interazione, quindi si continua questo trend, questa tendenza dei divorzi, delle separazioni sempre più numerosi? Sì, perché in una relazione di coppia il valore più importante è la responsabilità verso l'altro, la responsabilità il progetto comune di vita. È chiaro che la responsabilità impone un atteggiamento molto più faticoso della libertà, del non fare niente, del rinchiudersi in se stesso. Molti preferiscono stare soli, addirittura preferiscono separarsi piuttosto che continuare in questo impegno. C'è un totale disimpegno nella società di oggi, si vedono le persone che si impegnano tantissimo solo nel volontariato quando c'è e quando ci sono, non nella relazione di coppia. Perché? Perché si basano esclusivamente sull'attrazione, sul sentire l'attrazione, sul piacere, ed è sbagliatissimo, perché il piacere è una variabile del progetto comune di vita, è una variabile che comunque bisogna anche coltivare, ma prima del piacere viene il rispetto per l'altro, il rispetto per il progetto comune di vita, la responsabilità di agire ogni giorno, e tutto questo è faticoso. È molto più facile prendersi un pupazzo e pensare e farsi un film di tutto quello che si vuole, così come succede che ci sono molte separazioni, molti divorzi quando gli uomini sono tra i 50 e i 60 anni, quindi quando sono arrivati a un momento di maggiore responsabilità nei confronti di una donna. Una donna ha più problemi a 50 anni, quando i figli vanno via, quando comincia la menopausa, quando ha i problemi dell'invecchiamento, e gli uomini non vogliono assumersi questo carico e in genere si rivolgono a una donna più giovane, si separano e vengono trascinati in un nuovo progetto. Quindi sotto la lente d'ingrandimento praticamente ci sono soprattutto gli uomini. Scusa, avvocata Bernardina De Pace, vorrei sentire anche da Loredana Molina brevemente questo fenomeno delle reborn dolls, queste bambole rinate, questi bambolotti sì, molto simili ai bebè di cui si parlava prima, che hanno avuto grande successo negli Stati Uniti e adesso stanno arrivando anche in Italia, tant'è che Loredana Molina cura anche un sito. Loredana, in sintesi, di cosa si tratta? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto sono un artista che crea queste bambole, si chiamano reborn. E reborn, termine inglese, è rinato appunto avvicinare con delle tecniche che sono pittura, radicamento di capelli, riempimento, avvicinarli alla realtà. Quindi andare a realizzare questo bambolotto e renderlo simile a un neonato, se parliamo di neonati. Ma perché un certo numero di donne prende questo bambino, lo compra, anche insomma, a prezzi non diciamo Ma proprio... Diciamo, questa nasce come forma d'arte sempre in America negli anni 90. Mm. Poi è ovvio, bisogna prenderne una in braccio per capire cosa va a creare nella persona un bambolotto del genere. Effettivamente io stessa che li realizzo, al termine di questo realizzarli, quando li prendi in braccio ti danno delle emozioni. Mm. Ecco perché poi alla fine ci sono persone che già da sempre amano la bambola, perché non puoi amare una reborn doll se non ami prima la bambola. Quindi ci si avvicina a queste bambole perché sono veramente perfette e perché il nostro organismo, scientificamente parlando, quando diciamo emana queste endorfine che ci fanno stare bene, e quindi tendenzialmente si cerca di stare bene. E se questa bambola a una persona che ama le bambole fa stare bene, è normale, è legittimo, per carità, qui. Uno può pensare perché non si prende un gatto, un cagnolino, magari proprio per diciamo la dimensione di maggior impegno che richiede, così come dicevamo prima, anche delle relazioni con gli esseri umani. Avrei voluto una battuta da tutti gli ospiti, ma ci dobbiamo salutare, avremo modo di ritrovarci con l'avvocata Anna Maria Bernardini De Pace, con Elisabetta Fernandez, con il professore Emanuele Iannini. Grazie a tutti, grazie a Loredana Molina, devo ringraziare anche in redazione Barbara Bianchi, Chiara Compagnoni, Matteo Ramelli. Alla parte tecnica c'è la nostra Valeria Bernardi, ai telefoni la nostra Rosa. Roberta Giordano vi saluta, vi ringrazia. L'appuntamento, lo sapete, è domani alle 8.